E questa è proprio la potenza del cinema, che con un film che diventa un cult porta alla ribalta anche una canzone di tantissimi anni prima che magari era stata dimenticata. Loro sono i Roadhouse Brothers, questa è Unchained Melody e naturalmente viene dalla colonna sonora del film Ghost. Noi siamo Movieland, chiaramente, siamo tornati anche questa settimana, sabato 15 di giugno del 2013, sono le 18:03, abbiamo iniziato alla grande continueremo perché abbiamo tantissime cose di cui parlarvi. Vi do solamente un piccolo accenno, ci sono le premiazioni naturalmente del Davide Donatello, parleremo di The Butterfly Room, un bellissimo thriller americano fatto da un regista italiano, poi parleremo, naturalmente ci collegheremo con Film Up, la rubrica di cinema con il portale, in collaborazione con il portale Film Up, un'intervista con un ragazzo italiano che ha avuto fortuna ad Hollywood, e finiremo con un messaggio di Enrico Vanzina che ha voluto lasciarci. Naturalmente parleremo tra tutto questo anche delle uscite dei nuovi film in sala, Star Trek, Lo Hobbit, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, non andatevene, ma rimanete all'ascolto perché il pomeriggio si presenta denso di avvenimenti e quindi proseguiamo con la musica. Oh, arriva dal Top Gun, non è famoso come Take My Breath Away, però è una bellissima colonna sonora. Eccoci qua, questo è Danger Zone, Kenny Loggins. We'll be right back. E siamo entrati nel vivo del nostro programma anche oggi. Dal 1986 la colonna sonora di Top Gun, questa bellissima Danger Zone di Kenny Loggins, una delle scene dei combattimenti aerei più belle che abbiamo visto al cinema, naturalmente. E vogliamo continuare, perché ieri sera ci sono stati i David di Donatello, la 57esima edizione delle premiazioni dell'Accademia del Cinema, e quindi vogliamo vedere chi sono i vincitori. L'avete già letto sui giornali, l'avrete già sentito da altri notiziari, ma noi siamo Movieland, il programma sul cinema, il cinema alla radio, e quindi non possiamo far altro che ridirveli. Ci dispiace tantissimo. Allora, il premio al miglior produttore è andato a Domenico Procacci per il film Diaz. Domenico Procacci, un produttore molto prolifico ultimamente e che crede nei progetti giovani. Migliore attrice protagonista naturalmente è andata a Margherita Bui per Viaggio da sola. Il miglior attore protagonista e anche non protagonista, per due film diversi chiaramente, è andato a Valerio Mastandrea. Valerio Mastandrea, che ha iniziato un po' di anni fa da Costanzo, uno lo vedeva, non gli dava due lire, e invece sta vincendo tantissimi premi, è cresciuto tantissimo. Valerio Mastandrea, appunto, attore protagonista per Gli Equilibristi e non protagonista per Viva la Libertà. Ben due David di Donatello si è portato a casa. Poi migliore direttore della fotografia per Marco Onorato del film Reality. Il miglior film straniero, Quentin Tarantino con Django Unchained. E invece il top della lista dei premi, insieme a appunto in questo stellato mondo del cinema, film e miglior regia, se li porta a casa Giuseppe Tornatore per il film La migliore offerta. Benissimo, queste le premiazioni di Davide Donatello. Durante la mattina c'è stato un incontro al Quirinale, il rituale incontro al Quirinale, dove il ministro della cultura Bray ha detto: dobbiamo individuare tutte le risorse possibili per il fondo unico per lo spettacolo. Vabbè, dicono sempre così, sono situazioni di circostanza, speriamo che lo facciano davvero. Quest'anno hanno partecipato 27 film, hanno ottenuto le candidature, appunto, del premio Davide Donatello presieduto da Gianluigi Rondi. Don't ovviamente Eye of the Tiger dalla colonna sonora di Rocky 3, film bellissimo del 1982 con protagonista Sylvester Stallone. Adesso passiamo subito, entriamo nel vivo di Movieland, perché partiamo con il primo trailer. Eccolo. Questa è la stanza delle farfalle. Perché le metti dentro le cornici? Perché così non volano via. Vogliamo imparare a usare questa mano destra, Alice? Smettila subito, me ne vado e non torno mai più! Quando era piccola tutto era più facile. Io non ti lascerò mai. E tu non lascerai mai me. A volte vengono degli strani rumori dal suo appartamento. Dal mio appartamento? Ne è sicura? Visto che lei non è, chi altri potrebbe essere? Mi chiedevo se tu potessi tenere Julie con te mentre io non ci sono. Sarà un piacere. Lo sai che Angie è una bambina chiusa nella stanza delle farfalle? Io so che cosa ha fatto. Sono venuta solo per sapere che succede con quella bambina. Non la devi vedere più, va bene? Perché è una donna cattiva. Julie! Solamente io posso darti tutto l'amore di cui hai bisogno. Sto ampliando la mia collezione. Tu non mi insegni come devo badare a mia figlia! Io sapevo. Sta lontana da mio figlio! Ma che cosa ha fatto? Lo so cosa sei capace di fare. Fuori dalla mia stanza! Smettila! Baby, when it's sleeping, there's no crying. Mamma! Mamma! Benissimo a Movieland, oggi parliamo di grande cinema internazionale, anche perché stiamo parlando di un regista italiano che ha fatto un bellissimo film di genere girato tutto negli Stati Uniti con attori americani. Lui si chiama Jonathan Zarantonello. Zarantonello, un cognome, una garanzia, possiamo dire così? Beh, speriamo, insomma, ci stiamo lavorando, ecco. Tu come sei approdato negli Stati Uniti? Quali sono le tue esperienze pregresse? Io ho avuto sempre un grandissimo fascino per i film di genere americani, per cui sentivo molto che, insomma, il mio futuro sarebbe dovuto essere là. Ho provato molto a combattere qua in Italia per far risorgere il cinema di genere, eccetera, eccetera. Devo dire, gli ostacoli sono piuttosto insormontabili. Certo. Ho fatto un po' di corsi universitari in America, a Los Angeles, per cercare di ambientarmi, di capire come funziona lì. E poi ho trovato appunto il produttore Enzo Porcelli, che in modo illuminato mi ha consentito di produrre, di girare il film là. Allora, io ho letto un po' su internet, praticamente questo è un tuo racconto che hai scritto molti anni fa e che ci hai fatto, mi sembra, anche un cortometraggio, e adesso è diventato un film. Sì, ho fatto questo cortometraggio, si intitolava Alice dalle 4 alle 5 con Pier degli Esposti, e l'ho fatto ancora ai tempi della scuola di cinema e TV di Milano che ho frequentato. E da lì questa lunghissima genesi di oltre 10 anni per riuscire ad arrivare ad oggi. E proprio questo lungo percorso mi ha un attimo fatto riflettere su quanto abbia senso fare questo tipo di prodotto in Italia, che più o meno è come andare a vendere impermeabili nel deserto. Li puoi fare anche bellissimi, ma non li comprano, ecco. Non abbiamo la cultura del cinema di genere, ma in passato ce l'abbiamo avuta. Credo che il problema sia a monte. Produttori, prima di tutto, produttori che conoscano il genere, che vadano veramente al cinema a vedere i film e i film di genere, e in qualche modo gli sceneggiatori. Però, diciamo, ecco, io quello che ho visto in America, appunto, come sapete, chi va a ritirare l'Oscar per miglior film è il produttore, non è il regista. Questa figura del produttore, che è un po' businessman, che ha passione, che fiuta il mercato, questa è una cosa che un po' mi è mancata, e anche parlando con altri colleghi ho sentito che manca proprio in Italia, in particolare per quanto riguarda i film di genere. Parliamo adesso del tuo film. La trama, di che cosa si parla in questo film? Il film è la storia di Alice, che è una bambina che si fa amica delle donne rimaste sole, e una volta che diventa una sorta di figlia per loro e si rende conto che loro non possono più fare a meno di lei, lei chiede dei soldi in cambio, approfittando della situazione. Un giorno incontra la donna sbagliata e scompare. E tutto il film è l'indagine della bambina della figlia della vicina di casa, che cerca di scoprire che cosa è successo a questa bambina e soprattutto che cosa nasconde la stanza delle farfalle che la protagonista tiene sempre chiusa. Interessantissima la trama, interessantissimi ancora di più gli attori, il cast. Hai un cast spettacolare di icone del cinema horror e di genere americano. Citiamo Barbara Steele, Ray Wise, Heather Langenkamp. Come sei arrivato alla scelta di questi personaggi e poi come sei riuscito a contattarli? Ma guarda, l'idea era quella di fare i film con gli attori che hanno fatto i film dei quali mi ero innamorato da piccolo. Certo. E quindi ovviamente Nightmare, Venerdì 13, Halloween, eccetera. Certo. Devo dire che effettivamente là una storia buona ha un grande valore. Non è come qua da noi che non conta nulla, contano altre cose. Certo. Quindi io semplicemente con un amico giornalista, Paolo Zelati, ho avvicinato queste attrici alle convention e gli ho proposto, gli ho detto guarda io avrei questo film, è un film tutto al femminile, è un film in cui le donne hanno un ruolo preponderante sia da un punto di vista di personaggi positivi che, anzi a maggior ragione, di personaggi negativi, e mi farebbe piacere se potesse partecipare. Effettivamente là leggono le sceneggiature, non è come qua che non legge nessuno le sceneggiature, e si sono rese conto che non era il solito progetto che magari gli veniva proposto, in cui dovevano fare un cameo come una giornalista o una vicina, certo, di casa che passa, ma era appunto un film tutto concentrato sulla figura della femminilità di tre generazioni di donne. Quindi se ne sono sentita, insomma, di darmi tutta questa fiducia, che è stata anche una grossissima responsabilità, e di tornare, insomma, a fare un ruolo in un film di genere. Devo dire la presenza di Barbara Steele, che è stata appunto la prima attrice ad accettare, è stata ovviamente molto importante, perché, certo, era una garanzia che se lei dopo 20 anni tornava a fare la protagonista in un film, poteva dire che qualcosa di buono doveva esserci. Quali sono gli aneddoti, le cose che ti hanno colpito di più girando un film a Los Angeles? Ma guarda, la prima differenza è che in America tutti leggono la sceneggiatura, addirittura anche i produttori le leggono. E quindi è una cosa che mi ha stupito parecchio. Si lavora 12 ore al giorno, che è ovviamente una enorme fatica per me in primis, certo, è stata. La sensazione che qualsiasi cosa può succedere, per quanto un film sia piccolo, per quanto sia un regista sconosciuto, uno sceneggiatore sconosciuto, magari che vengono dall'altra parte del mondo, certo, non si sa mai che cosa può venire fuori, c'è sempre questa sorta di rispetto. Di rispetto e anche di sensazione che si potrebbe stare a fare qualcosa che poi rimarrà. Per esempio, nella troupe c'erano due persone che avevano lavorato alle Iene, e chiaramente quando lavoravano a Reservoir Dogs non sapevano che Tarantino sarebbe diventato, certo, uno dei più grandi registi del mondo. Però c'era quel tipo di curiosità e soprattutto questa venerazione e questo valore dato alle idee, alle parole, alle sceneggiature, che ti fa alzare ogni volta la mattina e dire chissà che mi venga un'idea buona, chissà che... perché hanno valore, perché non importa chi sei, non importa da dove vieni, non importa chi conosci, in realtà è tutto fondato sul denaro, no? Quindi, certo, se pensano che tu o una tua idea o qualcosa che hai fatto può far generare denaro, allora sei il benvenuto e ti danno le possibilità. Una domanda, il film è uscito il 6 di giugno, giusto? Sì. È già nelle sale da 7-8 giorni, come sta andando? Ma guarda, nel disastro generale di calura estiva e di spiagge bagnanti, si è difeso bene, nel senso che addirittura ci hanno dato una seconda settimana. Certo, siamo usciti in 12 sale, per cui non è che abbiamo fatto nessun tipo di incasso rilevante. Però devo dire, le critiche sono state davvero tutte ottime, addirittura non pensavo, anche molti critici che di solito si occupano solo di film d'autore hanno visto che è un film di genere, ma è un film di genere che tratta il male, tratta la figura della donna in un modo, spero, originale. E quindi, insperatamente, stiamo adesso entrando nel secondo weekend di programmazione e speriamo che piova. Negli Stati Uniti è già uscito il film? No, negli Stati Uniti uscirà in sala a ottobre, che è un risultato del quale sono contentissimo, perché negli Stati Uniti si producono migliaia di film e sono moltissimi quelli di alta qualità, e quindi l'uscita in sala è un po' un privilegio che viene concesso a pochi. È uscito in sala, che io sappia finora, anche in Russia e nelle Filippine, dove ho scoperto che c'è una community horror pazzesca. C'è una sensazione bellissima pensare di essere partiti da un'idea, anzi da un cortometraggio, e poi vedere questa idea come un virus si diffonde un po' in tutto il mondo. Perfetto, noi ti auguriamo

Ciao Emanuele. Benissimo, allora entriamo subito nel vivo che oggi non abbiamo tantissimo tempo. Parliamo di un film italiano. Ho visto il trailer, sinceramente mi ha colpito, mi piace molto. Di che cosa si tratta? Beh, sicuramente ti ha colpito soprattutto Claudia Gerini, perché praticamente il titolo del film è Tulpa e lei interpreta una donna dalla doppia vita che apparentemente vive solo per il lavoro, ma che la sera frequenta questo sexy club che si chiama proprio Tulpa. E dove ha diversi rapporti sessuali sia con uomini sia con donne, anche un po' forse per sopperire alla mancanza di relazioni affettive nella vita reale. Diciamo che la situazione si complica quando i suoi partner vengono uccisi uno dopo l'altro. Oops. Logicamente non potendo rivolgersi personalmente alle autorità, anche perché dovrebbe ammettere di frequentare questo club e avere una doppia vita, decide di indagare da sola. E a quanto pare questa performance ad alto tasso erotico della Gerini ha conquistato anche la copertina di Playboy, che insomma a 42 anni a dicembre è un bel traguardo, ecco. La settimana passata abbiamo parlato di Penelope Cruz che con 40 fa la Bond Girl. Claudia Gerini i suoi 42 li porta veramente bene, e non vorrei essere troppo di parte, però anche meglio della Penelope Cruz, sinceramente. Infatti. Altri due film in arrivo, un trailer ancora in inglese, in primissimo arrivato appena in redazione, giusto? Assolutamente, sì. È tra l'altro un trailer dedicato a un personaggio amatissimo come Lady Diana, perché si parla infatti del film Diana, che è un biopic sulla vita della principessa, gli ultimi 2 anni di vita della principessa, e sarà interpretato da Naomi Watts, che come possiamo vedere dal trailer la ricorda veramente in maniera impressionante. È spettacolare. Io c'è una ripresa nel trailer del primissimo piano degli occhi che sì, è identica. E sembra molto lei, veramente, ma anche come fattezze, non solo come aspetto. E insieme a questo ci sarà anche un'altra famosa principessa al cinema quest'anno, però non è stato ancora rilasciato il trailer, e sarà Grace di Monaco, che avrà le fattezze di un'altra bravissima e lasciami dire anche lei bellissima attrice come Nicole Kidman. Wow, le due principesse, per chi ama il mondo glitterato e principesco delle case reali, è arrivato il loro momento. Quando usciranno questi film, lo sappiamo già? Guarda, no, non ne hanno ancora una data, almeno in Italia non c'è ancora una data precisa, perché comunque sono ancora in fase di lavorazione, di post-produzione, okay, eccetera. Ti dirò che hanno già scatenato alcune rimostranze da parte delle famiglie reali. Penso saranno bellissimi lavori, e molti dicono che Naomi Watts ambisce all'ennesimo Oscar proprio con questa parte, ecco. Parliamo adesso invece dei film che sono in sala già. Sono i film in sala da ieri, sono tantissimi anche questa settimana. Abbiamo per esempio film impegnati come Il fondamentalista riluttante di Mina Nair, oppure horror come AIDS, House at the End of the Street, commedia nera inglese, per chi ama la comicità inglese possiamo vedere Killer in viaggio, e invece dall'Italia arriva Niente può fermarci. Ma sicuramente il piatto forte di questa settimana è Star Trek Into Darkness, che ancora una volta è diretto dal papà di Lost, J.J. Abrams, mm-hmm, in cui il capitano Kirk e l'equipaggio dell'Enterprise partiranno alla caccia di una pericolosissima arma di distruzione di massa che ha forma umana. In questa avventura tutto quello che i nostri eroi conoscono verrà messo in discussione, gli amori, le amicizie, tutto verrà messo alla prova, e sarà come sempre un'avventura spettacolare, visibile anche in 3D, e che secondo me può essere apprezzata anche non solo dagli amanti della saga. Quali film hanno incassato di più questa settimana? Guarda, ancora una volta troviamo al box office in vetta Una notte da leoni 3, che per il momento non arriva. Infatti vedremo come se la cava Star Trek. L'unica novità tra i primi tre in classifica al botteghino italiano è la seconda posizione di After Earth, anche se dai molti commenti degli spettatori non sembra aver convinto totalmente il pubblico. E invece come la settimana scorsa, in terza posizione troviamo La grande bellezza di Sorrentino, che invece sta piacendo moltissimo, sta riscuotendo molto successo. La cosa particolare di questa settimana al botteghino la troviamo in America, dove alla in vetta c'è questo thriller molto particolare che si intitola La notte del giudizio. Come idea centrale il combattere la criminalità e il sovraffollamento delle carceri, facendo in modo che una notte all'anno non esista nessun crimine punibile, compreso l'omicidio. Wow. Possiamo chiamarla la nottata mondiale della vendetta, cioè una roba bestiale. Benissimo, noi ringraziamo Erika, oggi siamo andati di corsa, ti ringrazio per questo collegamento con FilmUp, il portale del cinema italiano internazionale. Lo trovate naturalmente alla pagina web www.filmup.com. Noi ringraziamo Erika e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. To help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Kids, coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa Movieland, approfondimento cinematografico, notizie, pettegolezzi hollywoodiani, ma anche la buona musica che ha fatto la storia, anche lei, del cinema internazionale. Vi ricordo che ci siamo ascoltati prima la canzone di Lorenzo Cherubini, Giovanotti, Baciami Ancora, dal film appunto del 2010 che porta lo stesso titolo. Poi ci stiamo ascoltando questa che sta inesorabilmente terminando, Missy Robinson di Simon & Garfunkel, i grandissimi, che ha fatto da colonna sonora uno dei pezzi che potremo ascoltare, se ci riguardiamo magari in DVD o come volete, Il Laureato, il film con Dustin Hoffman, con un giovanissimo Dustin Hoffman del 1967. Ma bando alle ciance, arriva la prossima notizia che riguarda niente po' di meno che l'ex governatore della California. Chi era? Lo sapete? Ve lo dico io, Arnold Schwarzenegger. Perché che cosa è successo? L'ex governatore della California è pronto a rientrare nel quinto film della saga, primo Chuck nel 2014. Terminator va in pensione, dovrebbe essere probabilmente. La conferma arriva proprio dallo stesso Arnold Schwarzenegger, che si è espresso così sul sito The Arnold Fans: sono molto felice che gli studios mi vogliano in Terminator 5 nei panni del Terminator, gireremo a gennaio. Nessuno aveva idea che il progetto fosse così avanzato. Soprattutto la frase di Schwarz conferma il suo ritorno come personaggio centrale. Si attendono le conferme a quella che di fatto è stata solamente un'indiscrezione del buon con Arnold, il quale nel frattempo ha accettato di partecipare ad altri revival, The Legend of Conan e Triplets. Quindi abbiamo l'occasione di vedere al cinema Terminator va in pensione e Conan l'ha presa stamattina, quindi possiamo ritenerci pure soddisfatti. Grandissimo Arnold Schwarzenegger, a parte di scherzi, che ai suoi 67 anni abbia voglia così di allietare i fans. The Blues Brothers arriva dal 1980, Everybody Needs Somebody to Love. Canzone riesce a darti la carica anche se magari sei in un momento un po' giù, non hai voglia, senti questa canzone e inizia a muoverti, uno spettacolo. Everybody Needs Somebody to Love, The Blues Brothers, dal 1980, grandissimo film, un cult anche lui. Adesso però passiamo a una intervista realizzata qualche giorno fa a Firenze, dove siamo appunto stati a trovare un ragazzo dalle grandi speranze, molto interessante. Web Radio Network. Siamo insieme ad un attore italiano giovane che possiamo dire che ce l'ha fatta. Ha raggiunto molte mete a livello professionale, molte altre ne dovrà raggiungere perché ha tanti progetti in ballo. L'intervista la dividiamo in due parti perché è un po' lunga, ci ascoltiamo la prima parte, poi una bella canzone e dopo passiamo alla seconda parte. Intanto io ve lo presento, lui si chiama Daniele Favilli, ciao, come stai? Ciao a tutti, sono Daniele. Raccontaci un po' la tua storia, cosa hai fatto in Italia e poi come mai hai preso la decisione di andare a Los Angeles? Allora, io ho cominciato a lavorare come attore diversi anni fa, ho cominciato a studiare quando avevo 17 anni, è una cosa che ho sempre voluto fare, cominci a fare teatro, fai un po' di film indipendenti, fino a che non è arrivata questa cosa della TV in Italia, con Un Posto al Sole. Ci ho lavorato un anno e mezzo, è andato molto bene. Che personaggio facevi in Un Posto al Sole? Ah giusto, io facevo Federico Reali, che era il cattivo mefistofelico, diciamo, un personaggio anche interessante perché comunque io gli davo questo taglio, per me lui era Iago dell'Otello, quindi aveva, come dire, una sua, un suo grandeur, no? Una sua follia eccezionale. Mi è piaciuto anche molto farlo, perché comunque la soap è una bella palestra, perché ti dà dei regimi molto forti. Certo, non è lavorare con Spielberg, però insomma, quello che poi è successo è che quando io il mio impegno con loro è finito, ho fatto un altro paio di progetti in Italia molto, molto fighi, film indipendenti ganzissimi, molto interessanti a livello anche di sceneggiature, di storie, però che hanno avuto pochissima fortuna, difficoltà di distribuzione, e poi ti trovi davanti purtroppo in Italia al fatto che se tu lavori in un prodotto, diciamo, di serie B, come viene considerata la soap opera, ti mettono un marchio ed è difficilissimo poi entrare dentro il giro grosso del cinema. Fra l'altro il cinema che si fa in Italia a me non è che mi abbia mai esaltato più di tanto, perché io sono cresciuto con un tipo di cinema di genere, no? Anche, quindi, anche italiano, perché se te pensi Bud Spencer e Terence Hill sono italiani, ma fanno un cinema più di genere, e quindi io mi immaginavo che come attore puoi fare quello che fai in teatro nelle produzioni più piccole, quindi fai il western, fai il cavaliere, fai personaggi più grossi, non è solo il raccontare la storia del dramma quotidiano. Il dramma familiare è uno dei generi di maggior produzione in Italia. Quindi a un certo punto ci ho pensato un 6 mesi, sono partito e sono andato a Los Angeles. Quello che è successo è che la fortuna aiuta gli audaci, e arrivato a Los Angeles io dopo 10 giorni vado a fare un provino per un film indipendente, per un ruolino minuscolo, e mi scelgono per un ruolo molto più grande, che loro cambiano da messicano a italiano per darlo a me. Questo è stato un grandissimo segno, io dopo un mese ero a girare. Il regista, se non mi sbaglio, era Kate Palmer, giusto? Che poi ti ha dato altre possibilità e avete girato insieme poco tempo fa un altro lungometraggio. Raccontaci. Allora, il suo nome si pronuncia Keith, però insomma sì, Keith è adesso un mio grandissimo amico, e io ho un grande debito di riconoscenza nei suoi confronti, perché comunque lui, quando io sono andato al cast, non sapeva nulla di me, non sapeva che era appena sbarcato praticamente da 10 giorni, non sapeva che avessi lavorato in Italia. Io ho lavorato anche in Grecia, ho lavorato con la BBC prima di partire, ho lavorato in Spagna, non potendo lavorare tanto in Italia ho lavorato a livello più europeo. Però lui non sapeva niente, ma ha scelto solo perché gli piaceva quello che faceva, visto che c'aveva un'energia che gli piaceva e gli serviva per il film. Siamo rimasti amici e abbiamo cominciato anche a scrivere insieme. Lui aveva quest'altro progetto che si chiama Swelter, che vuol dire letteralmente afa, quindi caldo torrido, che è un western. È un western moderno però, per cui non è in costume, non abbiamo i cavalli o le cittadine fatte di legno, si svolge nel presente, però è un classico western, cioè ci sono i cliché del western rivisti come se Sergio Leone incontrasse Tarantino, di cui Keith è un grandissimo fan. Noi ci abbiamo lavorato praticamente partendo da zero con l'esperienza del primo film insieme per 3 anni, e io sono molto soddisfatto del fatto che alla fine il film è stato fatto, è finito, è già prevenduto in diversi paesi nel mondo. Uscirà anche in Italia? Lo potremo vedere quando? Dunque, teoricamente noi il film viene consegnato alla fine del 2013 e per uscire all'inizio del 2014. In Italia di solito si aspetta di vedere il successo del film in altri paesi prima di comprare. Io rispetto questa loro scelta. Spero che il film abbia una distribuzione nelle sale in Italia per 2 motivi. Primo, perché è un film mitico, è bellissimo, è un action movie con dei risvolti di dramma, quindi ci sono molti livelli, sono dei personaggi fantastici, è una gran storia, è girato molto bene, e anche perché comunque l'Italia è il mio paese. Io interpreto un personaggio americano, faccio un accento americano, quindi per me è una grande soddisfazione. C'è anche un notevole cast, perché abbiamo Jean-Claude Van Damme, che recita il suo primo ruolo, diciamo, drammatico, in cui non mena nessuno, fa la spaccata sulle sedie. Non è un film di Kung Fu, non è un film alla Van Damme. Infatti Van Damme non è il protagonista, è un supporting role, cioè uno dei comprimari, insieme a me e altri attori. E poi c'è Alfred Molina, che è un attore eccezionale, ha fatto Spider-Man 2, Chocolate con Johnny Depp. C'è Catalina Sandino Moreno, che è stata nominata all'Oscar nel 2004. Abbiamo un bellissimo cast. Grazie a questo cast il film è stato infatti prevenduto. Qual è il tuo personaggio? Tu chi sei? Chi fai? Dunque, la storia del film è la storia di un cattivo che a causa di una perdita della propria memoria diventa un buono, diciamo. Il protagonista è questo sceriffo nero in questa cittadina piccolissima nel mezzo del deserto, che è interpretato da Lenny James, che in realtà prima degli eventi che vengono poi narrati faceva parte di una banda criminale che aveva rapinato un casinò a Las Vegas. Quando quella rapina va male, lui viene ferito alla testa e riesce a scappare con i soldi, e gli altri quattro vengono arrestati, e dopo 10 anni quattro scappano di prigione per andare a cercarlo perché non hanno più saputo nulla di lui, e quando lo trovano in questa cittadina c'è questa brutta novità che lui è diventato lo sceriffo. Io interpreto uno dei quattro cattivi che tornano alla ricerca del quinto. Il mio personaggio è un sociopatico, io faccio sempre questi personaggi carini, no? Gentili, però è molto interessante perché lui copre la propria insicurezza e la sua ricerca di rispetto con questa apparenza anche un po' eccessiva, quindi il mio costume si nota tanto, ha delle pistole dorate, è molto interessante. Il personaggio si chiama Kane ed è uno dei temi del film, il fatto dei due fratelli che prendono strade diverse come Caino e Abele. E con Swelter, che speriamo di vedere presto nelle sale italiane, ci fermiamo qui per la prima parte dell'intervista, ci ascoltiamo una bella canzone e poi la seconda parte subito dopo. Sea reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child, you'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. Presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child, you'll never know how it feels to get so close and be denied. Eccoci qua, siamo di nuovo con Daniele Favilli, per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso. Daniele Favilli è un attore italiano che ha fatto il grande salto, è andato a lavorare ad Hollywood, però vuole tornare in Italia con grandissimi progetti da realizzare anche a Firenze, nel suo territorio. Infatti ha in testa un progetto molto interessante. Esattamente, infatti, che poi è un progetto che adesso sta anche, diciamo, sviluppandosi un po' di più che averlo solamente in mente. Ci sono dei gruppi europei che sono molto interessati. È un progetto che si chiama The Magnificence, quindi i Magnifici, e praticamente racconta la storia degli artisti del Rinascimento a Firenze, fondamentalmente Raffaello, Michelangelo e Leonardo da Vinci, raccontati con un taglio come se loro fossero le rock star del loro tempo, cosa che effettivamente loro erano. La differenza grossa fra il nostro raccontare gli artisti del Rinascimento ed altri film che hanno provato a raccontare le loro storie o anche documentari è che noi ci allontaniamo totalmente dall'idea polverosa del museo. Questi erano personaggi incredibili, con delle vite passionali, folli, pazzesche. Noi abbiamo fatto proprio un parallelo fra questi nostri tre protagonisti e le rock star famose, quindi per il loro tipo di carattere. Raffaello è Jim Morrison, quindi un uomo, un ragazzo poi che si gode la propria popolarità, crede di essere immortale. Michelangelo è un nihilista autodistruttivo, conflitto, con un conflitto pazzesco dentro di sé, simile a quello che era forse Kurt Cobain. E Leonardo è un uomo con una visione che va oltre il proprio tempo, come poteva essere John Lennon o in parte Mick Jagger. Quindi, come dire, riportiamo la modernità in un passato glorioso dell'Italia. La cosa divertente è che questa serie non è epica, è molto ganza, direi io, è come il film Amadeus, per esempio, o la serie TV Entourage, che parla proprio di un attore del suo entourage. Infatti il vero protagonista di questa storia è un personaggio fittizio che noi chiamiamo Giamatti, che idealmente potrebbe essere interpretato dall'attore Paul Giamatti, con cui abbiamo anche, diciamo, siamo in discussione per il progetto, che è il primo che si inventa l'idea di diventare l'agente, il manager di queste star. E quindi lui non ha solo a che fare con il loro talento eccezionale, anche per il tempo in cui loro vivevano, ma anche con il loro ego, con le loro personalità folli. E la storia verte tantissimo sul concetto di fama, che può essere una grande seduttrice, ma anche un elemento distruttivo. Idealmente noi vorremmo poterla girare a Firenze, perché Firenze è il posto dove questi avvenimenti sono accaduti, e intorno a Firenze ci sono tantissimi posti che ricordano il passato glorioso di questa città. Quindi anche se girassimo a San Gimignano o al castello di Malaspina vicino a Pietrasanta, ci sono dei posti bellissimi. Un mio modo di restituire, come dire, qualche cosa alla città che mi ha dato i natali, che io amo fortemente. Mi piacerebbe portare una coproduzione internazionale in Italia in cui si racconta la storia dell'Italia in questo grande, e che può avere un mercato anche molto più ampio, quindi può anche far conoscere Firenze e il suo passato oltre i confini nazionali, oltre la fama che già comunque Firenze ha. Non è che dobbiamo aiutarla più di tanto. Complimenti per tutti questi progetti che hai, perché sono veramente spettacolari, per la tua carriera, quella fatta e quella che dovrà avvenire, e noi ti ringraziamo per questa intervista. Un'ultima cosa, ai giovani attori ventenni che hanno questo fuoco dentro, che vorrebbero poter fare, poter andare e provare, che cosa gli dici? Gli dico di studiare tanto, di cercare dei maestri che gli possano dare delle suggestioni, che gli possano dare anche delle tecniche, imparare a capire cos'è questo lavoro dell'attore, cosa vuol dire raccontare un personaggio, raccontare, costruire quelle che io chiamo le sculture di emozioni, no? Capire bene qual è lo storytelling, come funziona il raccontare storie, perché studiare ti fa capire se veramente lo ami questo lavoro, se veramente quello che ti eccita è il lavoro, no? Il brillio che c'è intorno, i soldi, la fama, il tappeto rosso, quelle sono cose sì divertenti, ma la cosa veramente bella è quando fai il lavoro. E l'altra cosa che gli dico è di non mollare. Se questo è il loro sogno, nessuno ti può dire che non è giusto, nessuno ti può dire che il tuo sogno non va bene, perché ci saranno tante persone che ci proveranno a dirtelo. Ma se tu ci credi, è il tuo sogno, devi andare, è la cosa che vuoi fare. C'è una grande crisi in questi anni, no? E la crisi, secondo me, è un momento in cui ci sono tante opportunità. Paradossalmente la crisi ha distrutto il concetto di lavoro fisso, lavoro sicuro. Quindi se volete fare gli attori, non vi cercate un lavoro in banca, perché il lavoro in banca è sicuro, tanto sono entrambi insicuri, fate quello che vi piace di più. E poi mettete da parte i soldi quanto più possibile e investiteli per quello che vi serve, per farvi un corso in più, per farvi un viaggio all'estero a vedere che cosa succede in Inghilterra, che cosa succede negli Stati Uniti, in Francia. Imparate le lingue, perché nel futuro si lavorerà a livello sempre più internazionale, quindi magari sapere più di una lingua può essere utile. E poi crederci e non avere troppa paura, perché alla fine, comunque, se uno, per esempio io vengo da Firenze, alla fine alle brutte puoi sempre tornare in un posto meraviglioso come Firenze. Ringraziamo quindi Daniele Favilli, io ti ringrazio, in bocca al lupo e speriamo presto di vederti nei cinema italiani. Grazie, crepi il lupo, un saluto a tutti gli amici di Movieland. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the desert. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind? After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. E questa è stata una canzone riempipista di qualche anno fa, non ballava più nessuno in discoteca, il DJ metteva su Cuglio con Gangsta's Paradise e la pista si pienava nuovamente. Uno spettacolo di canzone, un bellissimo rap che ha fatto anche da colonna sonora a Pensieri Pericolosi nel 95 di Michelle Pfeiffer. Noi vi dobbiamo salutare, siamo veramente arrivati alla fine, le interviste oggi si sono allungate un po', però io credo che sono state molto interessanti. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Emanuele con Movieland torna sabato prossimo dalle 18 alle 19. Io vi saluto, vi mando anche i saluti di Enrico Vanzina, che vuole dare un piccolo input a tutti i giovani che vogliono fare cinema. Buon ascolto su Movieland, ci sentiamo la settimana prossima. Cari ragazzi, oggi vi mando un piccolo messaggio assolutamente così informale per ricordarvi che il cinema è una cosa molto importante. Il cinema è molto importante perché è una cosa libera e trasmette e racconta le storie del mondo, quindi racconta la ricerca della libertà. Tutti possono esprimersi col cinema, tutti possono andare al cinema e le idee circolano moltissimo attraverso il cinema. È chiaro che ci sono in questo paese delle cose che non funzionano. Oggi fare cinema è diventato difficile. È diventato molto difficile perché i conti non tornano. E perché non tornano? Non tornano perché ci sono poche sale in giro. Ci sono poche sale perché in molte regioni di questo paese gli investitori non vanno più a investire perché hanno paura. Questo è molto brutto. La seconda ragione è che voi soprattutto, ma anche i vostri genitori, molti degli abitanti di questo paese, credono che il cinema sia gratis, lo scaricano dai computer, e questo non va bene, perché il cinema è un lavoro fatto da tante persone, e quando voi scaricate un film sappiate che qualcuno verrà nella filiera del lavoro del cinema, verrà licenziato. Non funziona anche perché secondo me ci sono pochi giovani che lo fanno. I giovani si lamentano che non riescono a farlo, che è difficile, ma non è vero, è sempre stato così. Nanni Moretti fece un film con poche migliaia di lire di allora e è diventato Nanni Moretti. Ci sono esempi infiniti. Avete delle telecamere oggi, addirittura dei telefonini, potete girare quello che volete. Cercate di farlo, cercate di raccontare come vi divertite, come amate, quali sono i rapporti con i vostri genitori. Fate dei film buffi, gialli, emozionanti, romantici, di denuncia. Denunciate quello che vi fa schifo, ma fate circolare le idee e poi imparerete piano piano a farlo. Insomma, voglio dire, il cinema, e poi questo paese dove è stato veramente, è una cosa molto importante.